La farfallina che sta in cucina e fa la cioccolata per la madrina. Potì, potì, gamba di legno, occhio di vetro e barbetta degli gnu, gnu, gnu. La farfallina che sta in cucina e fa la cioccolata per la madrina. Poti, poti, gamba di legno, occhio di vetro e barbetta degli gnu, gnu, gnu. E fa la cioccolata per la madrina. Poti, poti, gamba di legno, occhio di vetro e barbetta degli gnu. La farfallina che sta in cucina e fa la cioccolata per la madrina. Poti, poti, gamba di legno, occhio di vetro e barbetta degli gnu.